mi scuserete se per una volta resisto al fascino dell'attualità. Vi parlo di un articolo di giornale vecchio di 8 giorni, uscito sul Corriere di sabato 8 febbraio. Ma si trattava evidentemente di un pezzo importante, tanto è vero che gli era dedicata praticamente una pagina intera, la prima del settore cultura e società, con un titolo a 9 colonne, disegni, fotografie, un'intervista di rinforzo di spalla, insomma, non il trattamento che si riserva di solito a uno scritto qualsiasi, e l'argomento è di quelli su cui di questi tempi non fa male riflettere. Dunque. L'autore, che si chiama Michele Brambilla, se non è uno pseudonimo, riprende lo spinoso dibattito sugli anni 70, sapete, gli anni del terrorismo, della lotta armata, del rapimento Moro, queste cose qua. E si chiede cosa possano sapere degli eventi di quella fase travagliata i classici giovani d'oggi, quelli che frequentano le superiori, le università, e afferma che stando a quanto a questi giovani d'oggi è dato leggere sui libri che propone la scuola, costoro non ne possono sapere granché. Sui libri di testo, scrive praticamente in apertura del suo articolo, le informazioni sono ancora molto scarse e ai giovani non rimane per sapere qualcosa su quel passato recentissimo eppure così lontano che avere qualche racconto dai genitori. E di conseguenza l'articolo si intitola tutta pagina Anni 70 la scuola non ricorda, e il sommario precisa, con quella che mi sembra un'intenzione polemica, che nessun manuale cita il nome del commissario Calabresi. Bobo. Voi mi direte che questa faccenda della scuola che non si prende la briga di tramandare il ricordo del passato recente dei suoi protagonisti non è proprio il massimo dell'originalità. Quando a scuola ci andavo io, da studente, dico, ero comunissimo deplorare come i programmi di storia evitassero con cura ogni riferimento al fascismo per non dire della resistenza, tutti eventi su cui peraltro non era difficile raccogliere utili informazioni. Ma il problema del nostro articolo non sta tutto qui. Perché il titolo, La scuola non ricorda, è sormentato da un occhiello che suona reticenze, omissioni e qualche faziosità. Ecco le sorprese che emergono leggendo i testi dedicati a un periodo difficile del secondo dopoguerra. Una frase da cui non si può non ricavare l'impressione aggiuntiva che quel poco che la scuola ricorda lo ricordi, diciamo così, proprio male. E per chi a queste cose non ci arrivasse da solo, beh, ci sono sempre i disegni, e nel caso un bel disegno a 4 colonne che raffigura un libro semiaperto dalle cui pagine spuntano 2 mani solidamente strette attorno al calcio di una pistola di rispettabili dimensioni. Illustrazioni del genere non possono che significare una cosa sola, altro che non ricordare, nelle nostre aule scolastiche girano libri che prendono la parte di chi in quegli anni impugnava la P38. Vabbè. Il fatto è che tutto questo non è vero, e non ve lo dico io che ho sempre pensato che non esista nefandezza di cui la scuola sia incapace e non ho mai creduto più di tanto al valore scientifico dei libri di testo. Ce lo dice l'autore dell'articolo, dello stesso articolo di cui stiamo parlando. Costui, dopo il pistolotto iniziale che vi ho letto, prende in considerazione 4 manuali di larga diffusione. Del primo dice che alla vita politica italiana del 68 ai nostri giorni è dedicato un capitolo intero e che il testo appare equilibrato. Del secondo, pur senza giudizi espliciti, fa notare l'obiettività della trattazione. L'unica critica che riesce a fare riguarda una singola affermazione sulla matrice oscura del rapimento Moro, un giudizio storico opinabile. Del terzo, scrive che, come il volume precedente, è equilibrato nei giudizi. E del quarto, definisce ancora più corretta l'impostazione. Insomma, per mantenere fede al titolo e alle premesse del suo pezzo, lo sciagurato è costretto ad andare a ripescare 2 volumi di 10-15 anni fa, rilevandone le imprudenze di giudizio, senza stare a riflettere che a metà degli anni 80 la vicinanza stessa agli eventi qualche ovvio sfasamento di prospettiva lo poteva anche creare. E comunque quanto si scriveva 10 anni fa non toglie che un articolo secondo la cui titolazione La scuola non ricorda e i libri di testo sono caratterizzati da reticenze, omissioni e faziosità, spieghi diffusamente che di quegli avvenimenti la scuola si ricorda benissimo che i manuali più diffusi presentano giudizi equilibrati e impostazione corretta. Niente di straordinario, sì. chiunque abbia anche una minima pratica di giornalismo sa che il senso dei singoli articoli non è definito dal testo ma da quello che accompagna il testo, dai titoli, dai sommari, dalle illustrazioni. Sono elementi che cadono sotto gli occhi di tutti, mentre gli articoli, soprattutto se lunghi, vi si possono sempre saltare. A chi ha preparato quella pagina interessava esprimere un certo messaggio e lo ha espresso, al di là degli agganci che poteva trovare nel materiale a sua disposizione. È un esempio di banale faziosità su cui non varrebbe neanche la pena di perdere tempo, se non fosse forse per il rilievo che gli ha voluto dare il Massimo Quotidiano Italiano. Ma anche la faziosità, però. Anche la faziosità ha le sue motivazioni, i suoi meccanismi di fondo. Al lettore appena appena un po' attento, il lettore un pochino attento, non può fare a meno di chiedersi se a dare fastidio all'articolista e a chi gli ha commissionato l'articolo non siano stati per caso proprio quei giudizi equilibrati e quella impostazione corretta. Perché non c'è nulla di equilibrato e di corretto nell'operazione giornalistica che abbiamo appena descritto, e proprio come non c'è niente di corretto e di equilibrato nel modo con cui la cultura italiana si pone di fronte agli anni 70. Esprimere un giudizio storico in un modo o nell'altro significa definire e isolare una esperienza, attribuirle un'origine, uno svolgimento e soprattutto una conclusione, e significa considerarla chiusa, anche se di un tipo di chiusura che permette sempre di ricavarne delle lezioni. E quello che caratterizza l'approccio ufficiale, no, verso quella fase della nostra storia è proprio il rifiuto di considerarla chiusa. Tanto è vero che si continuano a perseguitarne i protagonisti, a chiederne la resa o la biura, a tenerne un buon numero in galera. E in queste condizioni non si può fare storia, non si può accettare che altri cerchino di farlo. Vedete che la scuola non ricordi, nonostante tutto è altamente probabile. La scuola non ricorda mai quello che è sgradito al potere, ma articoli come questi ci fanno capire che quello che veramente non si perdonerà mai a nessuno è il tentativo di ricordare. I stand firm for a soil, liquor, rock and falls, and the juicy, juicy, juicy, dress me up in sticky, hands round the corner where